Innanzitutto ringrazio per questo invito. Io e Massimo, rispetto alla differenza di molti di voi, non lavoriamo per enti di ricerca, università, centri culturali, ma lavoriamo direttamente con gli enti amministrativi, nel nostro caso nella Regione Lazio. Questo cambia un po' la prospettiva con cui noi affrontiamo i problemi, che spesso sono di ordine più pragmatico, normativo, operativo. Anche se naturalmente ogni opera di pianificazione, nel nostro caso, presuppone anche un lavoro, se vogliamo, di ricerca. Una premessa a questo momento, all'introduzione di questo nuovo settore della trattato da questo convegno, credo sia proprio, cioè questo. Ho provato vorrei condividere con voi questo elemento di unificazione delle aree deltizie che stiamo affrontando, che è questo. Tutte le aree, un po' per motivi geomorfologici, idrologici, queste aree deltizie, hanno spesso nell'intorno una vastissima area che, almeno per tre delle aree di nostro interesse, non conosco il Niro, hanno poi un'area protetta che le include. Il Rodano con parte della Camargo, il Tevere con le riserve del litorale, e Galatir con il parco del Cotolignano. Quindi c'è sempre un'area protetta. Questo cosa determina, dove voglio arrivare a trovare il punto di contatto con con la seconda parte del titolo, cioè con la pianificazione infrastrutturale. Le aree protette hanno due obiettivi principali: la conservazione da una parte, non rientriamo in questo argomento, ma non c'è, almeno per la normativa italiana, per conservazione poi senza opportunità di valorizzazione e di fruizione. Quindi affrontare il discorso della fruizione e della valorizzazione attraverso la fruizione avvicina sicuramente a tenere sotto controllo, a doversi confrontare con il sistema delle infrastrutture per poterle fruire, che siano infrastrutture impattanti o infrastrutture di mobilità leggera, ma sono comunque degli elementi infrastrutturali con i quali dobbiamo confrontarci, o per indicare criteri di realizzazione più sostenibili, o per assimilarle, inglobarle nella pianificazione per renderle uno strumento di valorizzazione. Questo mi fermo qui, voglio soltanto, poi lascio la parola al Massimo, al collega, mi fermo soltanto a illustrare la diapositiva successiva per dirvi brevemente di quale zona parliamo. Naturalmente conoscete tutti benissimo Tevere, centro d'Italia e riserva del litorale. In questa diapositiva non illustriamo, anche per voler comprimere il nostro intervento, tutta la storia della legge istitutiva, che da circa 30 anni ad oggi non ha ancora uno strumento di gestione operativo, cogente, perché rispetto al pianificare le opportunità che ha il territorio, il piano di gestione, secondo la normativa nazionale e regionale, diventa non soltanto l'opportunità, ma diventa lo strumento con cui si rilasciano i cosiddetti nulla osta, si autorizzano o non si autorizzano determinate attività, quindi diventa uno strumento di trasformazione del territorio, oltre che di conservazione, quindi di conservazione sostenibile piuttosto che alla conservazione rispetto anche alla tutela, come dire, con i criteri di de minimum, cioè non si può fare la segnale. Lascio la parola a Massimo, che illustra tutto il processo con cui stiamo lavorando. Dall'inizio dell'anno 2015 ad oggi. Grazie. Grazie Luigi, grazie a tutti. Io mi inserisco nel fare ringraziamenti a chi ci ha ospitato, a chi ci ospita, a chi ha permesso tutta questa bellissima organizzazione. E vado subito a parlare dell'argomento. La riserva naturale del litorale romano, noi oggi come Regione Lazio, quindi come struttura amministrativa in cui questo territorio insiste, abbiamo l'obbligo normativo di portare questa riserva istituita, come vedete, nell'87, quindi 30 anni fa, a un piano di gestione, che è un piano di gestione che ce lo chiede la legge di farlo, non è una scelta volontaria. Che cosa è successo? Io in questa presentazione vi farò un excursus anche del territorio, per capire anche quali valori storici, ambientali, noi oggi ci troviamo a dover tener conto e quindi come pianificarli. Questa prima slide ci mostra una cosa importante, innanzitutto. Dall'istituzione dell'86, in cui vedete questa perimetrazione, c'è stato nel 2013 una riperimetrazione, un diverso perimetro, che ha tolto in questo cerchio qua una parte che è una parte legata all'aeroporto, allo sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino, aggiungendo invece questa parte qua sopra, questa parte qua sopra che prima non c'era. Questo un po' per compensare anche il bilancio. Siamo passati da 15.000, se quasi 16.000, a poco più di 16.000 ettari. Una storia che, come ho ripreso un po' il titolo di qualche anno fa, 3.000 anni di storia al Tevere, un territorio che effettivamente ha un vissuto molto importante a partire dall'epoca romana, in cui vediamo alcuni elementi caratterizzanti. Portus l'abbiamo già nominata prima, tutta la città romana che si era sviluppata, che è arrivata nel suo sviluppo maggiore a contenere oltre 50.000 persone in questo territorio, dove ancora oggi ci sono delle testimonianze, ovviamente, che in parte conoscete e in parte ve le faremo scoprire. Un territorio che ha, questa è una immagine della metà del 1500, come vedete sono rappresentati molti elementi storici, oggi archeologici, insomma le tante torri intorno a Roma, così come tutta la parte del Tizia in cui gli abitati romani erano ben sviluppati. Per passare poi a un punto fondamentale di questo territorio in cui c'è stata una trasformazione definitiva e netta, 1880, in cui inizia la bonifica, in cui si dà avvio al progetto di bonificare gli stagni di Ostia e lo stagno di Maccarese. Qui ci fu un evento importantissimo, perché i Ravennati, cioè i Veneti, arrivarono nel Lazio per svolgere questa importante opera ingegneristica, in quanto loro erano sicuramente i più bravi in Italia, avendo fatto tutto quello che avevano fatto nelle valli di Comacchio, eccetera. Qui abbiamo un'evoluzione a seguito di questa bonifica, appunto qui inizia, in questa immagine ancora la bonifica non era stata fatta, e vediamo appunto i due stagni, questo è lo stagno di Ostia, questo è lo stagno di Maccarese, e in rosso i primi nuclei abitati, pochissimo. Nel corso del tempo, 1906, la bonifica è stata fatta, quindi vedete tutti i canali che erano stati creati a seguito del prosciugamento dei due laghi. I canali si intensificano nel periodo della guerra, e i primi insediamenti di Fiumicino, Ostia, iniziavano a insediamenti urbani che ancora oggi, insomma, esistono. Questa è la parte di Ostia antica, questa è l'Eur. Qui è il passaggio importante, vedete, dal 51 all'82 c'è un'esplosione effettivamente dell'urbanizzazione, che arriva nel 2007 a quello che è attualmente l'urbano. Il Tevere è evidente che è la spina dorsale di quest'area protetta, che proprio corre al centro, e che appunto con la bonifica lo ha un po', in qualche modo ingabbiato intorno a questa urbanizzazione che vedete sviluppatasi. Oggi arriviamo a questo, in cui intorno al Tevere l'urbanizzazione effettivamente è massiccia, ma che contiene ancora il Tevere, lo vedremo da un po', molti elementi di ambiti naturali o seminaturali che di enorme importanza per noi. Oggi questo, questa è una piccola carta che dà indicazione di quali sono nei punti rossi sono indicati i posti di maggiore interesse, sia archeologico che naturale. Come stiamo procedendo noi nel piano di gestione? Innanzitutto il piano di gestione si sta svolgendo insieme a quella che è la valutazione ambientale strategica, secondo quello che è le direttive comunitarie, ossia viene fatto il piano, ma contemporaneamente tutti gli attori, i stakeholder, quelli che vengono detti stakeholder istituzionali, vengono chiamati a fornire indicazioni nel proprio ambito di competenza circa delle scelte che noi stiamo facendo. Nel selezionare, insomma, nell'individuare le priorità, un po' come il nostro collega Corrado ci dava le indicazioni questa mattina, noi abbiamo individuato questi ambiti di particolare interesse, su ognuno dei quali stiamo lavorando per diciamo, creare nel piano di gestione il proprio sviluppo. Allora, questa è un'altra cartografia che poi, insomma, dà un po' un'indicazione con i colori di come noi stiamo approcciando il territorio. L'ambito agricolo è l'ambito principale come uso del suolo di questa riserva statale. Il 70% di tutta la riserva, di 16.000 ettari, quindi circa 11.000, è agricolo. Un'agricoltura che è fatta per la stragrande maggioranza di seminativi in aree irrigue, ovviamente a seguito della bonifica, e per una percentuale di meno del 25% da coperture erbacee, quindi diciamo campi seminati e seminativi diciamo di piccole produzioni. È però l'elemento importante in cui agricolo importante in cui diciamo vengono svolte delle produzioni locali di interesse, immagino per lo più all'aspetto orticolo, carote, carciofi, insomma sono i prodotti principali. Il latte, qua dentro la riserva c'è una delle fabbriche più importanti del Lazio, insomma del centro Italia, per la produzione di latte, quindi a testimonianza del fatto che effettivamente l'ambito agricolo è un ambito molto sviluppato. L'ambito naturale seminaturale, beh, qui diciamo ci troviamo in zona pienamente mediterranea, prettamente mediterranea, quindi i sistemi di macchia mediterranea, dunali e poi di macchia mediterranea dietro, insieme ovviamente al sistema del fiume Tevere, quindi di tutti i canali, quindi della vegetazione diciamo legata a questi ambiti, la fanno da padrone. Un elemento per noi importantissimo è questo poligono qua, che mostra insieme al litorale la contiguità che il litorale romano ha con altre due aree protette di enorme importanza, che sono una la tenuta presidenziale di Castel Porziano, Presidente della Repubblica, e l'altra è Decima Malafede, che è un'altra riserva sempre contigua. Allora, questa è un'immagine del satellite del Lazio e guardate che questi due punti verdi molto netti sono due residui di boschi, dei boschi sacri romani. Diciamo che il litorale romano contiene ancora nell'insieme a queste altre due aree protette un sistema di boschi planiziali, boschi costieri che erano sacri ai romani, che nel complesso costituiscono una delle foreste più importanti planiziali che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, di circa 10.000 ettari, dove all'interno troviamo anche persistenze archeologiche importanti e che quindi danno un valore non soltanto naturalistico, che ce l'hanno di per sé dal nostro punto di vista, ma evidentemente anche di carattere storico e archeologico. L'aspetto insediativo è l'aspetto che poi vi farò vedere in una diapositiva, che diciamo su cui dobbiamo più fare i conti. Perché questo? Perché dall'istituzione, diciamo, è vero che questa istituzione è molto, diciamo, è 87, insomma, ne sono passati dei anni. Non abbiamo come istituzioni reali, non si è riuscito, diciamo, a creare questo piano di gestione. Non entro nelle ragioni che sono un po' complesse. Però di fatto qualche cosa, il fatto di aver perimetrato quest'area protetta ha permesso comunque di contenere questo sviluppo urbanistico a volte anche molto disordinato. E vedete come il fiume è compresso tra questi quartieri, diciamo, periferici della città di Roma. Oggi dentro i confini vivono circa 55.000 persone, indagine statistica, un po' come la stessa popolazione che al tempo dei Romani viveva sostanzialmente soltanto a Portus, però in uno sviluppo territoriale molto più ampio. C'è da dire che però nell'intorno di questo perimetro la pressione è almeno 5 volte maggiore, cioè nell'intorno, nell'area più vasta, vivono circa 250.300 persone. Quindi noi dobbiamo tener conto di questo impatto, di questa pressione che su questo territorio abbiamo. La maggior parte, dall'altro, questo è un altro elemento importante, questo grafico, questo verde, vi fa capire che la maggior parte delle abitazioni dentro i perimetri della riserva sono case sparse, sono piccole case che magari derivano, sono i casali della bonifica, di quando si fu fatta la bonifica, sono piccole case, quindi non c'è un addensamento dentro, c'è subito fuori. L'ambito grafico ovviamente è l'ambito sostanziale, perché come vedete qua, non so quanto si veda, però insomma il reticolo idrografico è molto molto molto intenso e ovviamente il fiume Tevere che ne dà l'origine di questa cosa. Oggi la bonifica, sebbene abbia diciamo permesso di recuperare dei territori in qualche modo che erano inutilizzabili, ma anche da un punto di vista sociale e sanitario, al tempo c'era la malaria, c'era, insomma, la vita non era sicuramente delle migliori. Oggi diciamo questa forte canalizzazione crea dei problemi nel bilancio idrografico e quindi diciamo questo elemento è un elemento che sicuramente va tenuto conto e dobbiamo in qualche modo integrarlo con la pianificazione generale. L'ambito costiero, beh, sicuramente è uno degli ambiti più importanti perché questa parte, diciamo, di costa laziale, e ve lo faccio vedere con la prossima slide, nonostante il forte impatto antropico, insomma stiamo nella capitale d'Italia, una città che ha più abitanti in assoluto, quindi in cui la pressione effettivamente è forte, mantiene ancora dei elementi di naturalità importantissimi costieri, che sono tra i più fragili in assoluto, decisamente di rilievo. Guardate questa carta che dà un quadro generale di tutta la regione Lazio, tutta la costa della regione Lazio, circa 400 km. Nel quadrante, nel quadrato centrale che riprende, diciamo, lo spazio occupato dalla riserva del litorale romano, vedete che i quadranti, che sono descritti in 3 colori, rosso, giallo e verde, danno semplicemente un'indicazione, in questo modo semplificativa, della ricchezza di specie tipiche di questi ambienti. Sappiamo che gli ambienti dunali sono molto molto fragili, la perdita delle specie è molto facile. Nonostante questo, in questi quadranti troviamo, guardate, molto verde, su 6 quadranti, 3 sono totalmente verdi, quelli rossi è perché non c'è riserva, ma c'è l'ambito diciamo urbano, quindi gli stabilimenti di Ostia. Quindi diciamo nel panorama laziale, oltre la parte nord e questa parte a sud, questa parte centrale mantiene ancora dei paesaggi di vegetazione dunale ancora ben intatti. Allora, e qui entriamo un po' per che cosa vogliamo da questo piano di gestione. Questo è uno degli approcci che stiamo seguendo, sia questa natura diciamo fortemente frammentata, fortemente impattata dalle attività antropiche, di fatto però ha un'importanza molto alta per quello che riguarda i servizi ecosistemici che fornisce a tutta la città di Roma. E quindi la stiamo approcciando da questo punto di vista, cercando di capire, secondo l'approccio del Millennium Ecosystem Assessment, ciascuno di questi ambiti che cosa fornisce come servizio ecosistemico alla città di Roma, a un territorio molto urbanizzato. Quindi questo è un piccolo schema per far capire che ognuno di questi ambiti, diciamo, effettivamente incide indipendentemente dall'altro sulla vita anche della città. Strategie di piano. Ovviamente noi abbiamo utilizzato l'approccio SWOT per analizzare un territorio che comunque, indipendentemente dall'assenza di pianificazione generale, comunque ha avuto la sua dinamicità, ha fatto tante cose, tra l'altro in maniera molto sovrapposta. Questo territorio, tra territorio archeologico, tra vincoli archeologici, vincoli legati al fiume, vincoli legati all'area protetta, diciamo, è un territorio che ha molti sovrapposizioni di interessi e che quindi diciamo è un po' un residuo di quello che doveva essere all'inizio, ma che comunque mantiene delle funzionalità molto importanti. Questi sono i principali elencati obiettivi di piano che noi stiamo cercando di portare a compimento. Il processo di pianificazione finirà a settembre di questo anno, secondo quelle che sono la tempistica che le normative ci chiedono. Oggi noi stiamo a un buon punto, anche se ci sono degli elementi ancora che non facili da sciogliere. La fruizione turistica è uno degli elementi sostanziali, perché come diceva il collega Luigi, noi abbiamo due obiettivi fondamentali da un punto di vista istituzionale: la conservazione intesa non come congelamento, conservazione intesa come mantenimento degli equilibri, mantenimento delle dinamiche naturali, ma non possiamo fare a meno di quello che è la presenza umana. E quindi la presenza dell'aeroporto, la presenza del porto di Ostia, la presenza del porto di Civitavecchia a nord, Roma come polo attrattivo, in questo ambito la fruizione turistica è uno degli elementi che poi porterà anche sviluppo economico. Allora, questo per dirvi a che cosa, passiamo un po' alle infrastrutture. Queste sono le infrastrutture leggere. Noi nelle scelte di piano non entriamo nelle scelte di pianificazione generale, poi ve lo mostro, ma cerchiamo, sicuramente possiamo e sicuramente cerchiamo di favorire quanto più possibile quella che è la mobilità leggera, la mobilità dolce, legata alla bicicletta, legata alla passeggiata, legata al cavallo, legata alla fruizione di questo ambito, dove il fiume Tevere è l'elemento centrale. Qui raffigurate nei vari colori delle sviluppi di piste ciclabili già esistenti nel territorio di Ostia, da Ostia Antica, che è questa parte qua, Ostia Antica è qua, però tutta la parte precedente, tutta la parte sotto, abbastanza piena di opportunità. Questa è la ferrovia che da Roma centro viene fino a Roma, e la ferrovia è un elemento che permette una mobilità combinata. Ok. Questo invece è il nuovissimo, qualche mese fa è stato tirato fuori il master plan della città di Fiumicino per la ciclabilità. Come vedete, in vari colori che mostrano se già sono state realizzate, se sono in realizzazione o in adeguamento, una rete di ciclabilità che permetterà la visita un po' di tutto il territorio. Questo è delle nuove linee guida che il Ministero dell'Ambiente italiano ha tirato fuori recentissimamente, appunto vedete la data, che dà delle indicazioni di come sfruttare i finanziamenti europei per andare verso questa direzione. Invece andiamo a parlare della mobilità, perché il tema era la mobilità. Preso dal piano della mobilità della Regione Lazio, cioè la programmazione dei prossimi anni su quello che saranno le scelte fondamentali del territorio. Allora, qui abbiamo tre slide e finisco. Allora, attualmente, la situazione attuale è che, quindi, Duminimum comprende soltanto tutti gli interventi già cantierati o comunque già finanziati. Quindi questi si realizzeranno sicuramente, sono la continuazione della pista ciclabile, che oggi si ferma qua, in questo punto qua, che continuerà sulla sponda destra del Tevere fino a Fiumicino. A brevissimo si realizzerà. E l'altro è dentro l'aeroporto di Fiumicino, un adeguamento dell'hub, che insomma funzionale soltanto all'aeroporto di Fiumicino. L'altra situazione invece è quella più interessante ma anche preoccupante, tra virgolette, è lo scenario al 2030, in cui la Regione Lazio prevede, ma come pianificazione, quindi in questo momento ci sono soltanto degli studi, diciamo di proposte di piano, un bel po' di infrastrutture. Quali sono queste infrastrutture? Allora, a livello aeroportuale ci sarà un treno nuovo, una linea ferroviaria che andrà verso il centro di Roma. Ci sarà un altro ferrovia di merci, questa qua, che passerà interamente sul litorale romano, attraverserà il Tevere e andrà a finire verso il sud pontino. E l'altro elemento importante è una nuova autostrada, questa qui, che è un corridoio di connessione tra questa autostrada qua, quella che viene diciamo lungo la dorsale tirrenica, che dovrebbe connettere tutto questo con la parte sempre sud pontina, con una nuova infrastruttura. Queste sono tutte che è questa qua, un collegamento autostradale. Quindi lì si realizzerà una nuova infrastruttura sul Tevere, un nuovo ponte, una nuova autostrada di 3 corsie. Tutto questo non è detto che si realizzi, perché le finanze a oggi non ci sono, però come programmazione, e questa è una programmazione che viene fuori dalle strategie nazionali, perché le autostrade, le ferrovie fanno parte diciamo della strategia nazionale. L'aeroporto di Fiumicino è il principale hub italiano, quindi sicuramente ha una importanza strategica. Questo è un po' riassunto con graficamente in un altro modo, sono tutte le infrastrutture che in giallo, quelle già esistenti ma che andranno adeguate, in rosso quelle di nuova costruzione. Allora, noi nel piano di gestione non possiamo e non entriamo in merito a questo, ne prendiamo atto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo cercando di fare delle scelte che, se questo passasse, riusciremo a in qualche modo a attenuare questo forte impatto infrastrutturale con invece delle possibilità di fruizione molto più legate agli ambienti naturali, al fiume e a quello che questa importante riserva ancora ci offre.